smettere il letto. Dietro le quinte torno ad essere un sicario che ammazza il tempo. Ma sono un killer imperfetto perché lascio mille tracce in un disco che non vende, c'è poco di magico. Poi impagino parole scritte in serie, seriamente, con l'inchiostro simpatico. Quando la luce sopra il palco si spegne, lo pseudo rapper torna fra la gente, dimenticandosi del resto, come il classico padre che scende a comprare le sigarette. Ed il pubblico si scorda di me, ed il mondo si scorda di me, ed io mi scordo di me, come una chitarra in disuso da sempre. Dimentica, questo fottuto testo scritto, frate dimentica, pure sottoscritto sotto una pioggia di fuoco, e dei pensieri messi in rima, e non paro di una pensilina, tipo siamo gente scoppiata, perché ti sei nata con la matita mina, e non imbocco una strada sbagliata o cattiva, io ne imbocco una malnutrita, ed ora sono al capitolo finale della storia, mi troverai ancora in un mare di gente in attesa di essere portato via da una nuova onda sonora. Quando la luce sopra il palco si spegne, lo pseudo rapper torna tra la gente, dimenticandosi del resto, come il classico padre che scende a comprare le sigarette. Ed il pubblico si scorda di me, ed il mondo si scorda di me, ed io mi scordo di me, come una chitarra in disuso da sempre. Quando la luce sopra il palco si spegne, lo pseudo rapper torna tra la gente, dimenticandosi del resto, come il classico padre che scende a comprare le sigarette, ed il pubblico si scorda di me, ed il mondo si scorda di me, ed io mi scordo di me. Ed il mondo si scorda di me, ed io mi scordo di me.